quella zona. Da Falcone sta andando lì. Come torni, fatti vedere, fatti sentire. Vaga. Avanti, giù. Ok, ciao, Luci. Non so se mi stai ascoltando, io ti sento basso, molto basso. Dov'è? Che hai detto che era? Oh, già, dove stai andando? Sulla strada di Alghero. Sai, la zona è poco favorevole per me. Lo so, Alghero purtroppo per me non è una buona zona. Vabbè, pazienza. Brecco. Avanti, Luigi. Buonasera, sempre per cortesia un controllo, che stavo regolando un apparatino a una piccola. Solamente un controllo di radio mi serve, se sta uscendo bene. Certamente, Gigi, molto bene, va benissimo. Giulio, da parte tua? Super 5. Positivo, dai, gliel'ho aperto un pochino di radio che era chiuso e mi interessava se era abbastanza chiara la radio, dai. Buonissima. Va bene, vi ringrazio, riprendete che glielo chiudo. Ok, lui, d'accordo. Va bene. Stavo dicendo già, dunque c'è una sfilata stasera qua, sai. Tutti gli anni lo fanno, non so da dove parte, ma non è che passa solamente qua, parte da qualche campagna, non so, forse dalla Landriga, che ne so, da quelle parti lì inizia, poi qui sfilano un po' più tardi, non vogliamo questo, un po' più tardi, cioè, la fanno tutti gli anni in ogni modo, Non lo sapevo. E io mi sono facendo un lavoretto a casa, avevo un motore dell'acquario, che di quelli buoni, solo che si era rotto, c'erano delle strisce di plastica davanti all'elica che tira l'acqua, no? Per farla poi per farla filtrare. E niente, si sono spaccate queste, a furia di stare a bagno, che cosa, non lo so com'è, si sono spezzati i cosi, come si chiamano, le stecche di plastica che c'erano. Allora mi dovevo inventare qualche modo per mettere davanti all'elica per non far entrare la sporcizia, qualche cosa. Gira che ti rigira, vado, guardo dove c'è tutti i pezzi, e cosa mi vedo? Un microfono di quelli amplificati, cioè solo la scatola del microfono, il resto non c'era. E ho visto che era una retina. Ah, aspetta che te la raggio io. Preso, ritagliata, attaccata a silicone, là è un buco. Ok, infatti te lo stavo per suggerire io. Metterci una retina, qualcosa, un filtrino, una cosa del genere. Che suppongo che vada bene ugualmente, anzi senz'altro va bene, magari vorrà cambiare dopo un po' di tempo, però diciamo che funziona. E meglio così, dai, e tu ce l'hai il divertimento lì con l'acquario, che passione per queste cose, bisogna tenerlo bene, perché se no la cosa non funziona più. Bene, e Davide si stava un po' lamentando che in questo periodo c'è poca vendita, eccetera, e tante tasse, e Davide ha detto, perché non lo sai, non sei solo tu così, è tutta l'Italia in queste condizioni, dunque, e quasi dice, me ne vado a lavorare in un altro posto, me ne vado, e tipo che so io a scaricare al mercato, mi danno 50 euro al giorno, e lavoro dalle, mi sembra che mi ha detto dalle 6 del mattino, fino alle 10, una cosa così, la mattina, poi me ne rientro di ultimo, ho detto, se ti conviene farlo, cosa mi dica? Sì, bisogna vedere se ce la fa, perché bisogna avere anche forza, non è che sia così, al mercato arriva di tutto, arriva roba pesante, anche scatoloni di perati, già confezionati, perché non vendono solo frutta e verdura, vendono un po' di tutto. E si lamentano, tutti si lamentano della vendita, una cosa, poi sotto il guadagno c'è sempre. Quando avevo io sempre qualche valore giorno, diciamo sempre, adesso mi sto piangendo perché tutti i pesci che ho fatto le razze, ne ho messo un po' con la coda di quelle lunghe, a ventaglio, un po' con la coda di quelle aperte, eccetera, eccetera, ho fatto le razze, insomma, ci sono nati i figli, quindi più che biocondizionatore mangive non devo comprare. Beh certo, se fare figli è chiaro che poi, però a un certo punto bisogna anche fare più grande l'acquario perché sarà troppo piccolo a forza di mettere i pesciolini, beh certo, e tu mi dici se ce la fa, non ce la farà, già è giovane, cosa, mi sembra che a 30 anni o una cosa del genere, che ti puoi immaginare, se uno non ha forza a 30 anni allora cosa è fatto, di buono è fatto, e all'anima, aspetta, non sarà l'unico uomo che non ha forza, lo forza già ne avrà stessato, e poi esprimete già è abbastanza robustello se vogliamo. E vabbè, ma non le bucce di gioco hanno della scarica al mercato, sono tutti digni giù, che è pesante. No, non dico che non ce la faccia, perché magari ce la fa, ma già si stanca, non è come fare quel lavoro lì. Lo so, indubbiamente, ma senza stancarsi i lavori non esistono, non esiste nessun lavoro dove uno non si stanca, nemmeno quelli che stanno seduti a tavolino, alla scrivania, anche quelli si stancano. Purtroppo è così, il lavoro è sacrificio, non è che lo puoi prendere così per gioco, lo prendi perché sai che devi soffrire anche, no? È normale. Lo sapevi che Portobello è il cognato di Raffaele? Sì, lo so, conosco anche la sorella di Davide, capito, conosco. La conosco anch'io, beh, certo, è appunto quella che lavora lì. Va bene, anche lì ce ne stanno lamentando, anche lì poca vendita, non è più come prima. Addirittura i negozianti, certi negozi che chiudono, vanno e portano l'arredamento lì da loro, portano. Ma anche gli acquari li hanno portato, dice, da Portobello. Ma ha detto, dice, mia sorella, ce ne sono una sessantina di questi acquari, lì ne hanno loro. Sì, che ti puoi immaginare, uno va a Portobello e se lo compra lì, anziché che venire da me. Stava lamentando in questo senso anche. Non so, perché Portobello ti ha anche roba nuova, non è come il mercatino delle Pucci che sembra... È presente un mondezzaio, anzi montinaggio per meglio dire. Tutta questa roba sporca, tutta roba rotta, tutta la carità. Lo so, anche lì ce n'è mondezza anche da Portobello, non è che è tutto buono, diciamo che anzi la maggior parte delle cose è tutta roba, tutta cosa vecchia per carità, che non la vorrebbe nemmeno un zingaro, non la vorrebbe come allenamento là al campo, figurati, già c'è qualcosa di bello, già c'è di bello, di buono, non di bello non c'è niente, di buono casomai, ancora che si può utilizzare più che altro. Ne ho visto uno, c'era l'altro giorno, sono entrato per curiosità, ero da Palmia, adesso mi voglio fare un giretto da Portobello, vediamo cosa c'è. E mi sono fatto un giretto, stavo vendendo un televisore 5 euro, funzionante a colori, l'unica cosa ci mancava il telecomando. Per dire, no? Ma uno di quei televisori antichi, di quelle grandi, no? Con cinescopi, eccetera, è ovvio, no? Insomma, qualcosina che si può anche prendere, qualche cosa antica che si può prendere, qualche disco, eccetera, antico, queste cose così che si possono prendere. Ma in quanto a mobili, per carità, è mondezza e basta, dai. Ecco, buonasera. Avanti, ciao. Sono Gianni, buonasera anche a Giulio. Ciao Alessà, buonasera anche a te, avanti già. Ciao Sandro, mi senti qua? Riprenditelo Sandro, stavo parlando di Portobello, tu ci vai? Sì, no, io ti stavo seguendo, io di solito sono sempre nel mio angolino, diciamo, mentre pianeggio mi faccio le mie cosette, accendo tutto quanto, schiaccio il bottone, metto in funzione e ascolto sempre. Sì, io vabbè, diciamo che per chi di prima necessità che ha bisogno diciamo, si recca lì. Sì, qualche volta ci sono andato così, ma anche per curiosità, c'è stata curiosità perché queste cose, diciamo, chiamiamole di recupero, chiamiamole chi non se ne sa cosa fare, va lì e le do via. E ci sono le cose, diciamo, le cose abbordabili, le cose che proprio, per carità, cioè, giusto come stava dicendo Giulio, neanche le zingare, vabbè, neanche la mezza per dire, dai, ok, va bene. Giulio, ti ho sentito nominare i palmieri, visto che tu sei un attimino nel settore, riguardo a Rocchetti Universali. Riguardo a che cosa? Universali? Sì, avanti, dimmi. Ok, perfetto. Io lo stesso ho sentito alcune volte parlare di questo Palmieri che è abbastanza fornito. Dove rimane? Tutto di fronte a Portobello, c'è una sala. Entri lì e vai in fondo e giri a destra. Vedi subito il cancello in fondo e lui è lì. Ho capito, perché c'era qualcuno che mi parlava lì vicino a... alle zone lì vicino al Porto Rosso, quelle zone lì, evidentemente magari si è trasferito, dai. Sì, si è trasferito, sarà già 3 anni, saranno, cioè, minimo sono già 3 anni, lì c'è la banca adesso, dove c'è la famiglia lì a Ponte Rosello c'è la banca di Sassari, ma da tempo, saranno almeno 3 anni, se non anche di più, si che lì, e lì di fronte, comunque strada numero 7 mi sembra che sia, se ricordo bene, ad ogni modo lì, proprio di fronte a Palmieri c'è una strada, tu entri lì, entri, vai giù in fondo, tanto è una strada praticamente che non puoi girare dall'altra parte. Quando sei giù in fondo giri a destra, vai ancora un pochino in fondo per 20 metri o qualcosa del genere, c'è un cancello, si scende giù, c'è un piazzale, parcheggi lì, c'è lui, capito? Poi già c'è un'indicazione, capito? Riguardo questi lucchetti universali, sai benissimo che diciamo un lucchetto universale sarebbero, poniamo 100 lucchetti con una chiave, tu puoi gestire tutti questi lucchetti, capito? E lui penso che ne tratti. Sì, penso proprio di sì, e poi va a chiedere un passaporto, può essere che esista anche il passaporto per i lucchetti, per le porte ad esempio esiste, con una chiave universale apri tutte le serrature delle porte interne, questo è scontato al 100%, ma suppongo che esista anche per i lucchetti, tu prova a chiedere un passaporto per i lucchetti, se ce l'hanno, e se ce l'ha sicuramente funziona, perché è fatto apposta eventualmente, no? Sì, no, vabbè, ho fatto una ricerca, diciamo, su internet e quant'altro, volevo capire, diciamo, il costo singolo, diciamo, di un lucchetto, diciamo, con queste funzioni, capito? Perché logicamente, magari, fuori per dire Milano-Torino costano tanto, fuori il trasporto e quant'altro, e se qua per dire li trovi allo stesso, per dire tanto male, tutto lì. Ok, a te Gianni e Mike. Qua mi sono... stavo facendo una cosa via computer e mi stavo ascoltando. E diciamo che a Portobello qualche cosa si trova di più nuovo, ma là è proprio uno schifo. A me, Ragazzuoli, ma non c'è per scordate che sono anch'io, cambia. Ebbene, non c'è. Eia, sono qua con Corsia, sono già. Eccolo qua, ciao carissimo, buonasera. Sono qua con Corsia, sperando sempre che riesci a tirarmi fuori con la buonasera avanti. Sandrino, buonasera. Ti tiro fuori, sempre quello. Radio Super 5, cambia! dalla serata stasera lì ai punti c'è la serata del carnevale, sì, che chi è interessato può venire ai punti che ci sarà la serata, anzi penso che sia già partita, non so da dove parte, se parte dalla Cucca o da qualche zona, però poi passa qua ed è bella, bella, insomma ci sono anche carri eccetera, musica non finire come tutti gli anni, insomma va bene, avanti già. Ma passa all'interno di Ripunti Giulio oppure dalla parte della superstrada, si è verso l'esterno? Passa all'interno, sì, passa all'interno, praticamente passa di fianco alla chiesa, no? Allora passa da quella piazza grande dove di solito fanno la piazzetta gli ambulanti o dove fanno le feste, là lì, passa lì, passa, e sale su, su, su, tu c'è in alto, perché non mi ricordo che via è quella, boh, no, non lo so che via è, comunque fa un bel giro, no, comunque, no, diciamo che per essere una serata così di quartiere già è abbastanza bella, dai. Vabbè, poi qualcosa di innovativo, sono le frittelle, adesso non lo so, non so cosa fanno, ci va tanta gente, sai, ci va, insomma, diciamo che passano quei camion tutti bene arredati, fatti in una certa maniera, non sai, no, tutte mascherate, anche mesi, e dunque musica a tutta birra, di quella musica di tutti i tipi, soprattutto musica per giovani. K-K. Va bene, riprendo io, saluto Sallo, intanto, nel frattempo riprendo io il giro. Ciao, ciao, salutoni, ben sentito. Prova a chiedere, passa per tu, è una chiave universale, se ce l'hanno anche per i lucchetti, per le porte esiste, ripeto, per le porte interne esiste, ce l'ho anch'io, ma per i lucchetti dovrai chiedere lì da Palmieri, si chiama passepartout, chiave, è una chiave universale per i lucchetti. Ok, ciao, ciao, alle prossime. Avanti già. Ma quella chiusa dei ladroni. Andare, ciao Sa, ci sentiamo, dai, alle prossime. Avanti Giulio. E beh, allora, come va? Quando vuoi dai l'alimentatore, avresti sentito lì, non lo mi, che te lo porto. Quando ci vado ai posti, mi piace sempre uscire con qualcosa in tasca e giustamente il discorso è quello là. Lo sai come la penso io già, perché a me non mi piace a me fare quelle brutte figure, capito? Sì, vabbè, come già lo sai che problemi non ce ne sono mai stati, e non ce ne saranno manco adesso. Vabbè, comunque, vedi tu come vuoi. Avanti. Oh, Giulio. E tu mi sembra, aspetta, il campanello dell'ascensore gli stia suonando. Ok. Sì. Perché mi sei passato proprio vicinissimo, perché mi stavi arrivando, 9:30 mi stavi arrivando, anzi diciamo che non c'era più posto dello smittere per andare avanti, forse anche di più, ma non c'era più smittere, era finito, e dunque si vede che è proprio vicino lì nell'aria a me. Ero lì, ci ho passato di fronte a cosa, a Marcello, hai capito, dunque... sono sotto il porto dove c'è l'auto A. Ho capito, sì, appunto sto dicendo, non c'era più spazio nello smittere, oltre non si poteva andare, perché era finito tutto lo smittere, e vabbè, meglio così, ottimo per la zuppa. Però il microfono, peccato non li hai mai messo in quel baracchino o leoncino, li hai mai messo, come mai? No, non l'ho messo perché non ne ho, hai capito giù, non ne ho. Io questo qua, a parte quello che avevi tu, quello che è normale tuo, e poi un altro che era da tanto, hai capito? Dunque, sto modulando con quello normale, hai capito? Lo so, il microfono normale, certo, sì, quello sì. Sì. Nemmeno io ne ho applicati per la macchina. Se l'ho travellato, ma non ne ho. Ma se mi dovesse capitare, io te lo... Ma il fatto che non ne ho in questo momento, io ho tutti i microfoni da tavolo, qua sono. Vabbè, pazienza. Cioè c'è sempre tempo, non è un problema. Avanti Gianni, sei rientrato? Sì, io sono sempre qua. Cosa ti stavo dicendo? Ma non ce l'avevi il videocicco l'amplificato, il microfono, quello della Intec, che andava bene. Quello della... non ho capito già. Intec. Ah, quello lì è dell'altro apparato, ho capito, del garage. Quello là c'è applicato il garage. Ecco. Vabbè. Quanto si è fatto? Una prolunga, già lo sa, diciamo, si fa. E non puoi adattare per tutti gli apparecchi. Lo so, e vabbè, comunque, no, non mi interessa, va bene, questo, cioè, è quello che ti ho dato, quello che ci ha messo, che me l'aveva regalato Gianluca, amico. Perché ti ho fatto io? Quello che mi hai rifatto tu, capito, ti ricordi? Quello che me l'aveva regalato Gianluca, di Polo Torres. Vabbè, ho capito. Abbiamo adattato quello, ho capito. L'altro ce l'ho stesso a casa e lo teniamo come scorta, capito? E ci sente bene, un bel microfono questo qua. Già va bene. L'ho amplificato. E adesso, Sasha, qua, ma fuori non si sente niente, hai capito? Fuori, per fuori ce ne vuole uno amplificato. Quello sì. Ha ragione, infatti arrivavo in bassino. Capito, no, ero grazie a cosa lì, a San Marco, grazie proprio ero morto, ho dovuto attaccare un po' di vitamine. La zona industriale? Ega. Gaffa. Vabbè, io sono da voi che non ci scendo la Io, ma non c'era niente, infatti sono dovuto andare, adesso c'era una persona per il lavoro, invece era chiuso. È un mortuglio anche adesso, in questa stagione è un mortuglio, d'estate è bello. Ha capito, lui me l'aveva detto, scendi tra febbraio o marzo, adesso sono sceso oggi, ne ho approfittato, ma era chiuso, adesso ci scenderò la prossima settimana, poi vediamo un po' per parlare per il lavoro, capito, vediamo un po' cosa mi dice. Per il custode? Ma non da quello là, no, da un altro. E da quello che c'è a fianco? Da Raffaele. Ho capito. telefono molto più serio, molto più tranquillo e quando si dice quello è quello, ho capito che le altre no, sarà di un giorno, due giorni, però alla fine poi te le mette tutte quante assieme, ho capito questo, sarà la radio. Tutti i male pagatori, poca c'è la gente onesta, va. Che anche loro se ti possono fregare ti fregano, ma mette sulla cassetta del mondo, come sapessero tutti nel palazzo che lei è un truffatore. Lo hanno rifiutato i gamberi della impresa qui. E una volta invece l'hanno messo a me il bigliettino sotto la porta, poi si è sbagliato, era di quello di su, hanno scritto praticamente che volevano i soldi della verniciatura della macchina, eccetera, eccetera, che mi aveva promesso e ancora non si è fatto vedere, eccetera, eccetera, che se entro tre giorni si fa vedere gli mettiamo fuoco alla macchina. Te l'ho messo sotto la porta, no, io gli ho attaccato alla cassetta delle lettere, del portone, sì che tutti quelli che entravano, un bel biglietto grande, scritto anche con lettere molto grandi, in modo che lo vedessero tutti, e in preso è giunto una regalina, si è aspettato. Altro che, vabbè, così è. Avanti, io ci. Io l'ho preso, l'ho portato, e l'ho messo sotto la porta. Che il carabiniero se gli schiacciano i piedi si gira, è normale. nessuno, normalmente è una persona educata, buona cosa, poi se trova quello maleducato e non la rispetta, è cosa normale che si dica. Vabbè, dai, comunque, lasciamo perdere ormai queste avventure, non me ne succederanno più. Che poi non sono avventure, erano diritti che mi aspettavo, che mi sono sempre fatto rispettare, me li hanno sempre dati. Va bene così, comunque. Non entra nessuno comunque, sempre soli siamo. Stavo dicendo, mio padre, lo stesso, faceva lavori, poi doveva stare attaccato al telefono per chiedere i soldi, eccetera, eccetera. E poi gli appago a fine mese non si faceva vedere, quindi gli telefonava, gli diceva, ma questi soldi, ma proprio incavolato, no? Perché ci devo mangiare io. Io lo credo, no, ma io sono così, Guarda, a me, se me ne fanno salire i 5 minuti, ridare io, guarda, io non vedo più, non vedo più, ma dopo 2 minuti mi passa, però in quei momenti ti posso assicurare che sono terribile, mi temo io stesso, mi temo da solo, guarda. Adesso io c'ho più autocontrollo, ma prima, ad esempio, prima le chiacchierate, quando era sacco il cuore ero così, anche io. E prima che mi rompeva le scatole, le pigliava a colpi. Non le prendevo io, dipende. Ma la maggior parte delle volte le hanno prese, quindi. Adesso un po' mi sono calmato, perché dalla volta che è giunta la polizia a casa, una volta giù sono arrivato col camion da Ferrara, carico di vino, ho parcheggiato il camion, sa che ancora si avvicinano questi tipi e mi fa, scusa narcotici, lì qua il furgone non lo può parcheggiare, e ho detto, lasciami in pace che sono stanco, erano in tre e mi perseguitava, mi metteva là presso, vai non vado un vigico, questo ti cubro la cavanata, non so cosa, di voto. A un certo punto oggi non ce l'ho fatta più a sopportare le parole che mi stavano dicendo, ti dico lui saluto tutte e tre e non mi hanno chiamato la polizia, bastardo. Ci sono venuti due poliziotti che altri due amici, che diavolo mi vedi se tu sì, e cosa è successo? Poi guarda, se sta bene, per scordare narcotici, c'è tutta la sera che dopo vuole fare la gente che passa, perché un signore ha detto ti sta bene, trovate il tempo per la tua scopa, sente tutta la sera che non prende le scatole la gente che passa. E mi metto, tu fai finta di non conoscere, diciamo che sei giù, che ti abbigliate da chi so, ancora mi sei scadente per scuola non ancora, ci dico niente signor per cortesia, ma io non so, pum, gattavano, devo ricaricare in macchina, devo ripulsare. Sì, lo credo, è così già, bisogna, le mosche da sopravvenire bisogna togliersene sempre, perché come diceva una volta, io mi ricordo, c'era un istruttore in palestra dove ero io, c'era un istruttore di arti marziali, diceva sempre, ricordati sempre che la migliore difesa è sempre l'attacco, questo non te lo dimenticare mai, sempre. Naturalmente si deve controllare al massimo, ma quando poi non ce la fai più, ricordati che la migliore difesa è sempre l'attacco. Hai sempre vinto, e così era. E se no, ce ne sono sistemi a casa. Io ho un fratello che è istruttore di arti marziali, buon padre, hai tutto. Ed è giovane, oltretutto. Va 20 anni più poco di me, e ancora se la sente bene. Ma comunque è una cosa, guarda, non si crede, la gente se non lo può fare una cosa, non deve fare, basta, cosa sta a tirare lunghe per pagare cosa, a me non mi prende di mano, quando c'è i soldi la cosa la faccio, se non la posso fare non in voi. Io lo credo. Mi ricordo una volta, c'era questa ragazza, arriviamo, noi avevamo tutta la cosa, il corredo da suo schifo, no? E ce l'avevamo ognuno nel suo spazio in palestra. Arriva questo, prima di me, trova le mie scarpe, siccome avevamo lo stesso numero, prende se le mette. Arrivo io, guarda, cerca le scarpe, lo c'ero. E mi dico, le scarpe io, lo lasciate qua. Chiamo io me, che era l'attore, ma le mie scarpe qui erano qui dentro con mano aperta lì. Come gli ho dato uno schiaffo, si è uscito, si è sbattuto, c'è la faccia alla cosa, alla porta. È stato allora per te, per aiuto. Quello l'avevo fatto macellaio. Questo macellaio c'era il ragazzo che portava le spese e c'era un ristorante che faceva praticamente la spesa, voleva sempre carne a pezzi grossi, poi la tagliavano loro, però ne avevo portato entro quell'ora. All'una meno un quarto si usciva al macellaio, così la volta parlava dalle 10 e la preparava all'una meno un quarto, aveva di andarci, ogni volta faceva così. Allora un giorno il ragazzo della spesa mi ha detto: già, se ti chiede di portarla per non portare nulla, perché io me ne sto andando, non impara a fare in orario la carne. E io, quando me l'ha detto, io sono addetto a fare queste cose, gli ho detto: c'è Marcello, ma Marcello se n'è andato, qua se n'è andato perché tu gliela fa sempre all'ultimo momento, deve fare la 40 volte, cioè se non gliela porti tu. E mi ha detto: Figlioli, non ci ho visto più, direi di tutto, un ciappa, mano piena, svenuto, tipo, tutto salvo dal naso, e è andato a dire a tutti che l'avevo preso a punta. E questo da giorno non c'è più venuto in paese, perché dite, se vieni in paese domani ti do un resto e così via, non c'è mai più venuto. Era, questo qui era un parente di un CB anche, tra l'altro, che oggi da tanti anni era di Amazzone, adesso non ti faccio il nome, però era un parente, perciò ti puoi immaginare. Oh, yeah. No, stai tranquillo che come non buffonava nessuno e non scherzo nemmeno oggi, ti posso garantire che nemmeno oggi, perché se non ce la faccio con le mani e già trovo un sistema, e come lo trovo, voglia. Tu non te lo immagini nemmeno già. Sì, ci sono, altro che se ci sono. Ripeto, sono molto ma molto calmo queste cose, io difficilmente arrivo alla violenza, però stai attento a me, non traboccare da quel limite, perché sennò i da ragione, non si buffoneggia, anche se sia una montagna. Ripeto, se ce la fai con le mani ti trovo e se la faccio pagare in altro modo, questo è il contatto, e mi dai anche. Ma noi se lo sappiamo difendere, non è che si può fare sopravvettere da tutti. Mi auguro che non ce ne sia mai bisogno, perché a me la violenza non piace. Mi piace stare in pace con tutti e via dicendo. Però sempre c'è qualcuno prepotente, maleducato, tipo quegli spavaldi che si fanno nel mezzo della strada, devi passare con furgone, magari c'è fretta perché devi consegnare, e si vengono in giornale, si vengono a parlare con le macchine affiancate, e dici cosa, si cattano pure, capito? Uno addirittura, sai cosa ha fatto di vicino ai carabinieri in pubblico, a Polo Torres? C'era la fila delle macchine, questo qui suonava, ha detto bibi, bibi, bibi, e come dire, tale dove passo, vedi che sono le macchine, si è guardato dalla macchina, due lupi che mi racconta a casa. E lui, mi ricordo, c'era qua, io avevo sempre l'abitudine di mettere i cavalletti fuori, no? Sul marciapiede davanti alla porta di bottega, magari mettevo anche uno o due sacche di serratura fuori, no? Per non prendermi troppo spazio dentro, lo mettevo fuori in attesa di andare al gettito a buttarlo. E aspetta un bel giorno, me ne passa questo, me ne passa questo ragazzo, correndo, è passato, pum, con la mano, con l'altro, e me ne butta i cavalletti per terra, me ne ha proprio rovesciati. Io mi faccio la porta e lo guardo, e lui correndo verso giù, verso la parte dello stadio Pina, andando a quelle parti, infatti vabbè, già passerai qua, non ti preoccupare. Un ragazzo che avrà avuto 23-24 anni, una cosa del genere. Vabbè, io avrò avuto allora 45 anni, una cosa del genere, più o meno, e l'indomani, la stessa cosa, non basta, adesso te lo seguo, l'ho inseguito, sai dove l'ho trovato? L'ho trovato all'angolo di via Montello, dove c'è quel Morello, quello delle pernici. Prima di girare, di svoltare, lì c'era un negozio di generi alimentari, c'era il cazzo, c'è uscito lungo lungo dentro di lui, c'è uscito l'ha giubilato, ma lungo il letto, ne ha giubisato, l'ho fatto tornare indietro a raccogliere i cavalletti, e quando poi l'ha raccolto gli ho cucciato i due capiotti, e adesso domani se vuoi ripassare, guarda che sono sempre qua, i cavalletti sono sempre in quel posto, ma è più che passato, ma chi crede è passato già? Poi c'era un ragazzo, mio padre, sai, lavorava al banchetto, al cartolaio, e il banchetto rimaneva proprio di fronte alla porta, ma per aver visto la luce. E c'era questo ragazzo che ogni volta che passava gli tirava frutta addosso. Una volta l'ha presa la testa, un'altra volta l'ha presa la spalla, e balla, questa volta non mi frutta. Ha preso e si è nascosto dietro la porta quando l'ha visto che stava arrivando. Si è nascosto dietro la porta, lui è entrato e ha guardato dentro per vedere se lui era al macchinario, non per tirarvi, si tirava pesche, tutte queste frutte qua, una frutta arancia. Poi si è nascosto dietro la porta, come lui è entrato, gli ha chiuso la porta, c'era di quei fiscili di ghisci proprio antichi, di quelli triangolari, grandi grandi, ce li ha presi, e il serrato da Ian, ha pigliato il cubo e ha commentato a quelli di una giussa, ma dico che si è ammettato per tagliare un gambo. Ce lo credo, è lo stesso discorso con seguire i ragazzi, pensavano rubando la bestetta, io sono passato lì in via del Mamedio, lì su nella piazzetta c'è l'edicola, un giorno passo lì davanti all'edicola, dopo che avevo fatto un 40-50 metri mi sono ricordato che dovevo prendere il giornale 5 elettronica, non lo compravo tutti i mesi, e mi sono fermato lì, ho parcheggiato, ho visto lì dove mi sono fermato, e sono tornato indietro a piedi per arrivare all'edicola, come ha lasciato il vestino aperto. Caspita, nella prima posta due ragazzi, due giovanotti sui 20-22 anni, si avvicinano e stavano prendendo la moto. Come mi giro, aspetta, ti vedo che stavano cercando di togliere il cavalletto. Aspetta che ti do anche la chiave, perché la chiave ce l'avevo io, no? E dunque anche se la prendevano non potevano mettere in moto. Aspetta che ti do la chiave, così non parte, gli ho detto. Come vi ho detto voi, appena sono scappati. Li ho inseguiti verso via Fredoliani e ci sono entrati loro dentro un cancello dove c'era il giardinetto davanti al palazzo. Uno ci è uscito da una parte e uno ci è uscito da un'altra di questi ragazzi. Ne ho raggiunto uno, proprio entrando nel portone, sempre lo stesso discorso, gli ho raggiunto un ciaffo sempre a tubetto e ci è uscito lungo lungo dentro la aiuola, ci è uscito. Infatti, uno dei due cafiotti a buio li ha giubisato, l'altro non l'ho potuto trovare perché l'altro ormai era sparito, perché io ne avevo seguito uno, ma se trovavo l'altro anche bucava un altro. No, pensavo, e te questo qui è anzianotto, già sai, ha già intorno ai 40-45 anni, e io sono giovane e non mi trova, scappo e non mi trova. Però non avevo fatto il conto che ancora io ero praticamente in allenamento, tu pensi che avevo fatto l'ultima gara, avevo fatto che avevo 43 anni, però andavo sempre ad allenarmi, anche se ne avevo 45 ero sempre in piena forma, ti puoi immaginare già, e non è andata bene la cosa, no, già. Qui uno che ha fatto atletica non può mettere una persona normale, c'ha più fiato, c'ha più lancio nella corsa, eccetera, eccetera, resistenza e tutto qua. E c'è sempre da lottare. Oh, yeah. Ogni tanto rubano qualche cosa, o moto, o macchine, adesso cominciano a rubare il lupo, le macchine di grossa cilindrata. Sì, purtroppo queste cose si verificano sempre, lo so, però siano attenti perché se le trovo il padrone non si sa mai cosa gli fa. Oi, ma comunque, vediamo se c'è qualcuno, c'è nessuno che vuole entrare su canale 5? Sì, se mi fate entrare che entro volentieri, ciao a tutti. Chi è che non ti fa entrare? Ci mancherebbe altro. Noi siamo sempre disposti a far entrare qualsiasi persona. Avanti, riprendi. Ciao Fabrizio da questa parte, ciao Gianni, ciao a tutti. Ciao a tutti, dai, mi è in macchina. Riprendi Gianni, salutoni. Stavo ascoltando perché stavo trovando a stare un'antenna. Dai, avanti. Ciao Fabrizio, non vuole parlare di macchina, onestamente. Ti ho sentito chiamando là, ma mi pare che non mi è riuscito. Ho fatto una chiamata, no vabbè, ma lì ovviamente quello di Cristoforo di Cassari, cioè io oggi ho passato dalle 2 sino alle 5, poi sono uscito a 3 ore in radio, ero in 15 metri, mi metto in collegando da tutte le parti con l'attività radio, cioè sarei in 195, 525, 250, una frequenza molto, cioè ero giusto per dire, io mi sono lì, sono là, cioè per il discorso, per stare tutta la sera di là, non c'era bisogno di prendersi la patente, chi c'è là c'è qua, è uguale, no? No, sono in macchina con, io sono un quadrimano in macchina, non avevo ancora provato, usato lo stilo per gli 11 metri, capito? Quindi questo è lo stilo per queste frequenze, se, anzi mi direi come sto uscendo di orario perché non l'ho mai usato qua. Ma va bene Fabio, ma che macchina l'hai messo? La Jaguar. Hai messo un apparecchio serio? Sì, un apparecchio serio, un quadrimando, sì, c'è un Nikon C706 MK2, il quadrimando, non so se lo conosci, ma ce l'ho già da appena preso la patente, il giorno dopo ce l'avevo già in macchina. Tu sì, in cielo intorno di loro, io non ti sento mai, buonasera a tutti. Ciao, ca. Ciao, ciao, ciao, ciao, Mavi. Ho fatto 7 in 20 metri e 3 o 4 in 15. Poi intorno alle 5 me ne sono uscito, un po' prima delle 5 me ne sono uscito, adesso tu sì che ti tengo l'antenna delle, là e provo questi stili qua, riprendi qua. Ciao, ciao Fabi, mi sto ascoltando io la bocca, sto finendo del lavoro che mi ho portato a casa. Ciao Gianni, ciao Giulio. Se c'è ancora Sandro, Giuseppe, insomma, e dopo lo farò, vi ascolto. No, ti ho sentito chiamare 250, ma io non rispondo. Ok, no, io ero 20 metri, sono ancora 20 metri, però non ti ho sentito. C'è una bella propagazione, però non ti ho sentito, la verità, evidentemente avevamo frequenze diverse, comunque non fa niente. Buonasera a tutti e buon fine settimana, avanti Gianni. Ciao, buonasera a te. E Gianni, dove è stato? No, ho detto buonasera a tutti, sono qua, vi ho salutato, sono entrato. Sapete, io sono di quelli che ascolto, ho detto opportuno, boom. A te Gianni. Perché tu buon fine settimana, pensavo che stessi andando via e subito. Sì, c'è la fine. La signorina bella. Io la sento. Ciao, un bacio di zocco, che lo viene bene a dirlo, avanti Giulio. Ok, ciao qua di nuovo. Ciao di nuovo Fabrizio, non so se mi ha sentito vocale. Vabbè dai, io vi lascio, vado a guardare per la serata qua, così vediamo un po' che cosa combinano questi ragazzi che fanno la serata qua. Ci sentiamo eventualmente più tardi. Ciao Claudio, ciao Gianni, ti lascio in compagnia di loro già. Ciao Fabrizio, alle prossime, dai, ascolto fino a lì e chiudo e vado a guardare la serata. Ciao ciao, riprendi pure Fabrizio. Ok, ciao Giulio, mi ha fatto piacere averti sentito, che era un po' che non ho vellato, perché ogni tanto ti ascolto ma non ho vellato, quindi mi ha fatto veramente piacere. Sì Gianni, così, infatti ti ho detto come sto uscendo di radio, perché la verità qua non l'avevo mai usata, perché in genere, guarda, forse la seconda volta che monto la base magnetica, quella tre grossa con questi stili per le varie bande. Perché è troppo ingombrante, io ho la fede fissa per bucare la macchina, non se ne parla, e quindi non serve già. Beh, che macchina? Magari nell'altra, Fabrizio. No, nell'altra l'avevo messa, però qua non fa. Marco, cioè io buco tutto, anche se io buco tutto e tu bucati la testa, gli dico sempre, capito? Non è buco, capito? C'è la base magnetica e metto quella, appunto. Marco, perché cambia macchina molto facilmente, le tiene un anno e poi lo cambia, quindi non gliela fa più nulla, ma lui è proprio, vabbè, è tutto preso la frequenza, quindi lavora al 100%, quindi è normale che lo faccia fuori strada, l'ha fatto sulla Porsche Cayenne. Lo so, ma io anche non è che scambio, però come fai a vendere la macchina con un buco sulla cappotta, una macchina del genere? Ma allora dice, ma scusa, ma qua cosa ci hai messo? Fai un buco perché avevo caldo, per mettere il dito fuori e salutare la gente. Una cosa, è il buco dell'antenna della radio, non ce l'ha. Ma questa no, questa c'ha la pinna sopra che fa l'antenna della radio, del navigatore, del telefono e del televisore, tutto quello che fa, capito? Ah, ecco, quindi non fa manca mettere la lista, perché sennò magari l'avresti messa lì. E vabbè, Fabrizio, fai bene, dai. Io vabbè, l'ho bucata la mia, ma l'ho fatto fare, diciamo, da una persona specializzata in queste cose. Mi ha messo praticamente degli anticorrosivi, eccetera, eccetera. Non l'avrei fatto se non mi avesse dato il 100% di coso, di garanzia. Mi ha detto, guarda, con questi anticorrosivi non si arrugginisce a manco se ti ammazzi. Me l'ha piazzata, il cavo che ha messo che andava in pelo del pettuccio là tutto quanto nastrato con questo nastro che ha la gomma piuma per non fa rumore, cioè infatti il rumore non ne sento mai, ma insomma non è il problema di sentire i rumori o no già del buco, perché il buco l'ha messo bene, puoi fare quello che vuoi, se il buco puoi tranquillamente isolare, fare, il problema è un altro. Mi accompagna la pensione, ci sta, anche adesso mi stanno accompagnando una ventina alla pensione, no? ci sta anche che gli dai la mobilità, poi gli aggiungi quello che gli devi dare, sì, che ti dà cose se ne va in pensione. A me che uno gli manca, come me, che ormai che hanno allungato l'età pensionabile, mi dice, ci diamo 4-6 anni di stipendio per andare a casa. Cioè, io spero che siano come me, si sta su, si blocca tutto, una volta che blocchiamo noi gruppi, non ce la facciamo più a mantenere la frequenza, spegniamo Sardegna e si rimane tutto al buio, poi si riflettiamo di accensione. Come esce nel perfetto carabinieri, giustizia, altro giustizia, ma cosa sta succedendo? Ditelo a questi deficienti che non siamo importanti, che vogliono rimigliorare il personale, spero di avere, che abbiamo le palle la gente per fare una cosa del genere, se no poi non piangono quando sono a casa. Il fatto è che non si fa per altruismo verso il prossimo, queste cose qui è difficile farle, però ne stanno approfittando troppo, l'altro giorno ho visto quegli operai di cose dell'Alcoa, di cose che piangevano, che disperati, con la disperazione dentro, che ti facevano piangere anche a te, dicendo ma cosa mi do da mangiare ai miei figli se non mi pagano, io non voglio la cosa più grande, io voglio il lavoro. Lo so già, però la differenza tra il diritto al lavoro è uguale per tutti. Però la differenza è adesso, se avessi lavorato in un posto matto dove sto lavorando adesso, e mi dico, guarda, purtroppo l'energia è in crisi, in effetti in crisi noi non stiamo guadagnando quello che si guadagnava una volta. Perché l'alcol ha chiuso, tutti stanno chiudendo, quindi la vendita di corrente è di meno. Se tu mi dici, guarda, i fatturati stiamo andando di sotto, non ce la facciamo, stiamo chiudendo i gruppi, allora io posso capirlo. Ma tu Stato, come permetti, in un periodo di crisi come questo, una multinazionale tedesca che chiede e ottiene, perché hanno accompagnato alla pensione una ventina di persone, gli hanno dato praticamente 4 anni di mobilità, no? Hanno concordato, poi ovviamente l'azienda si è fatta carico di questi altri, la differenza dello stipendio che prendono, e in più alcuni sino a 2 anni che stanno coprendo, gli stanno dando un certo tanto per agganciarsi alla pensione, no? Ma io gli avrei detto, tu devi mandare a casa, mandare a casa, io non metto le risorse dello Stato, la mobilità costa a me, perché cosa? Perché invece 60 milioni li avessi guadagnati 62, c'è una multinazionale tedesca, questo è rubare. Io non se la metto la mano sulla coscienza, non è che pensano che c'è gente che resta a casa, che non gliene frega nulla a loro, niente, tutto qua, nulla. Lo so, è quello che ti sto dicendo, alla fine uno si gira le palle, no? Perché a me quello che non è per bene, cioè se c'è un periodo di crisi, certo che dispiace rimanere senza posto di lavoro, però ne parliamo, e purtroppo la gente in crisi è... Cosa pretendi di fare 250 milioni di euro come facevi 5-6 anni fa? Quando la corrente c'erano delle leggi in Italia che erano delle leggi truffa e si mangiavano tanti di quei soldi che non te li immagini. Ma a parte quello, cosa pensi che tutte le altre aziende stanno guadagnando e stanno guadagnando? Se forse in Sardegna, diciamo in questa zona qua, è l'unica azienda dove sta facendo utili e ti permetti di dichiarare esuberi, ma tu non abbiamo politici, un politico deve fare una cosa, scendi giù, prendo e ti prendo a calci del culo. Sì. Secondo me un po' tutti ne stanno approfittando, Fabri, con la scusa della crisi, ne stanno approfittando quando li pesano troppo, magari alcuni operai, alcuni che sono troppo anziani, che gli devono pagare i contributi, eccetera, eccetera, e trovano la scusa e li fanno fuori. Ma c'è troppo alla fine, professor, ma secondo te un'azienda, ma anche un'azienda come la mia, non ho più voglia io, che ne ho 44, mi mangio anche un 55, 57enne, cacchio, devo fare altri 10 anni, ma cosa se ne fa di un elemento del genere, quando è arrivato quasi a 60 anni, ma cosa se ne va, ecco, non avrà la dare il suo contributo, ma anche quando verso io verso circa 20.000 euro all'anno, no, non ti parlo di quello che è di morto, solo esclusivamente di quando 18 e 20 euro, esclusivamente di contributi per la pensione. Ma se tu li lasci a me, lo sai che pensione mi faccio io? Ma lo sai che pensione mi faccio? Mi stanno dando i colleghi che stanno dando intorno ai 32-33.000 euro all'anno, che è l'ordo, quello che si dice per pagarti i contributi e le tue cose, cioè per dirti, no, cioè giusto per dirti, ma con tutti quei soldi se mi rilasci a me, ma lo sai che pensione mi tiro dopo 40 anni? Ci credo Fabio. Oh, che dopo non ci vai più con lo spirito che ci andavi prima a lavorare, ci vai col malumore, ci vai, lavori, fai lavoro, tanto perché lo devi fare, però non ci vai più con lo spirito di prima. Non me ne può fregare più niente, ma se cosa vuol dire? A me non me ne frega niente di andare a lavoro, e vado anche l'altro giorno, sono andato con la febbre due giorni, per carità, sono andato con la febbre perché poi sono dovuto stare più di una settimana a casa, giusto perché c'era gente ammalata, anche la fede, ma chi me lo fa fare? Tutto modello non ti ridate, il giorno che si tirano le palle, poi non ti danno un calcio di nascimento e ti buttano fuori. Malgrado abbia incarichi superiori eccetera eccetera, non guardano niente, guarda, io lo so anche da altre persone che avevano incarichi particolari eccetera eccetera, sono stati dentro la faccia del sedere e mandati via solo perché erano anziani, dovevano pagare i contributi eccetera eccetera. C'eravamo con l'anziano adesso dico che l'anziano si posa, invece è proprio con lo giovane che si posa, perché quando gli dici qualche cosa non è compito mio, non è che prendi, non è compito mio, ti rispondo tutti così. Non lo so, a me non mi frega niente, a me l'ha detto un anno e mezzo fa, se arriva gente fuori dal turno che conosce il lavoro, mi hanno fatto anche una buona proposta, prendere categorie, salire, fare una certa cosa, ma la gente mi fa una cosa, lascia la testa, non mi picca la gente, a me mi devi lasciare la testa, me ne sono uscito da seguire lavori, sono qua tranquillo, non voglio responsabilità, lasciatemi la testa, capito? Non mi rompete le palle, faccio bene il mio lavoro, allora lasciatemi fare, capito? Rottura di palle, per carità. E poi capito, cioè, da certe cose quando uno diceva sono sto lavorando a Leon, quindi, e già pensava di aver raggiunto una fetta, un lavoro. Invece non è più così, lo sai che ho sentito una signora l'altro giorno che stava dicendo che non licenzia più il figlio, lavorava in banca e per il esubero l'hanno licenziato. Stavo dicendo, c'erano posti come il mio, posti pubblici, c'erano posti come in banca, tutti posti sicuri, cioè non si pensava mai. Sono messi in discussione anche questi posti, qualcuno diceva, ma è bene un par di valle, perché in maniera che si è messo in discussione il mio posto, gli altri sono carta straccio, sono, capito? Va bene così, loro gli va bene così, ma quando si pensa uno vuole entrare in banca, in banca, che ne sono andate in mobilità anche in banca, capito? Sì, questa signora ha detto qua, mio figlio è in banca, è un funzionario in banca, in cosa, non ha lavorato nulla, se aveva degli incarichi superiori, niente, non ho fatto fuori, lui adesso dice a spasso, era incontinente, ce l'ha fatta la famiglia lì, non aveva manca lì, eppure non aveva guardato niente, ma anche incontinente, sicuro che ti partivano fuori, andava incontinente a trovare lavoro, non è per nulla, no? Lui già fa dei problemi teoriti, a me da cosa succedenti, la catastrofe generale, la fine del mondo. Chissà che quando ci sono le meteoriti, perché non riesce in testa qualcuno, ti dico io. Davvero? Ma chi si salva la sotto, Fabri? I bastardi si salvano sempre, sono i poveracci che ci rimettono sempre. I bastardi si salvano sempre. Una pioggia di meteoriti addirittura, che non ho visto in Russia che è successo. Una cosa mai vista, cioè i meteoriti si vedevano ogni tanto, stelle cadenti e cose così, ma adesso è proprio una cosa esagerata, la natura ci sta proprio bombardando tutti i voli, YouTube, perché di più. Allora, se tu lo dici a me, una cosa che testimoni di Geova, la Bibbia lo dice, mi dice sempre la fine del mondo si sta avvicinando. Io sono sempre guardia. Anche quelli di Nostradamus e Coso troveremo il futuro, eccetera, eccetera, allora sono per sbagliato, quindi. La vita di una salvo in cielo, Fabrizio. Mamma diceva, non cade fuori che Dio non vuole. Infatti è così, cioè è così, non è che è così. Io sono sempre qua, Sì, sì, ma io voglio farti le chiacchiere in 20 metri, io metto gli stili. No, Fabrizio. Io sono sempre qua, mi sto lasciando parlare, ma sono sempre qua, non ci sono problemi. Non ne voglio, Fabrizio. Sto facendo cose, mi sto ascoltando, ma sono sempre qua, non ci sono problemi. Ma intervieni, dai, parla, di la tua. Vogliamo sentirti. No, ne ho sentito troppo. La polemica che feci io oramai se ne dice troppo, quindi è meglio stare in silenzio. Rispondo solo in base al buco della macchina. Io quando ho passato l'Audi, se ben ti ricordi, già mi c'erano due antenne, una avanti e una dietro, quando ho passato l'Audi per prendere il Volvo mi hanno scalato 1000 euro, quindi bucatevi la testa. No, ma è una scelta, per carità, io non ce la faccio, perché uno dice, ma fanno a qui, ce la so quanti ne buttiamo in questo di sud, dice, ah, poi quanto vale, 1000 euro in meno, ma chi se ne frega, è quello a comprare un'antenna, ma io non ci riesco, è come picchiare una donna, io non ci riesco, tu non sai come le tratto io le macchie, tu considera che adesso devo cambiare i copertoni e quando smonto i copertoni porto la macchina al carrozziere per verniciarmi i cerchi, smonto i copertoni, faccio riverniciare i cerchi e se mi vedi non hanno niente, hanno quattro graffiettine, poi troppo cattive per dire no, come sono pignolo io, e mi metto a bucare, se mi vuoi torturare mi lega un palo e col trappolo mi buchi la cappotta, così vedi che mi scendono le lacrime anche dalle orecchie. Ma vabbè, infatti io ho bucato, ho sempre ascoltato gli altri e poi basta, non ho bucato più, non ho più messo delle varie macchine, non me la tutti nuda. Come fai tu, c'è la base magnetica, un'antenna VU, se devo metterla, la metto e basta, e trasmetto lo stesso. Sta cosa bucare la macchina è un casino, perché prima non vai a passarla, ma appena te la tieni, come ha fatto Giovanni, è ciccia. Quando la versa la rottama, no, per dire, ma uno che versa la macchina ogni 4 anni, ogni 3 anni, ogni 5 anni, no, non fa perché te lo scalano, a me me l'hanno scalata, la mia ci aveva 4 anni pieni, forse neanche, e mi hanno scalato 1000 euro alla German Car, 1000 euro, capito, anzi alla Volvo, perché l'avevo versata al volo alla Volvo, 1000 euro mi hanno scalato, e mi pesavano, capito, perché li avevo avuti per lui in tasca per aggiungere, e quindi mai più ha giudito, boh, se abbiglia il culo la radio e lobby, la radio la faccio a casa, in macchina se la prendo il culo la faccio più, amati gli anni ripeti. Ma comunque a me mi è sembrata bene, non mi ha mai dato acqua, niente, è stato fatto un bel impianto, non mi hanno mai dato problemi, però io non me ne sono pentito, dico la verità, perché vabbè, la macchina che ho preso è una macchina che fa anche 300.000 km tranquillamente senza fare mai il motore. Ce l'aveva il mio cognato uguale, gli ha fatto 300.000 km e l'ha versato che camminava come il primo giorno che l'ha comprata, senza mai valuta. Cosa che la fiat di cambia marmite, frizione, questo e quell'altro. E io l'ho voluto fare tutto, cioè ho pensato di fare così e basta, a me di quello che mi hanno detto gli altri perché me lo buca, non me ne ha fatti nulla, sinceramente parlando, è una cosa che ho voluto, un colpo di testa che ho voluto fare, però farlo su una Jaguar è già diverso, e dico la verità, non lo farei manco io. Sì, ma soprattutto anche perché io sono del parere, no? Se tu mi faccio una bella linea, lo stava facendo, pastorizzare, cazzo, al centro della cappotta una macchina come questa, ecco, mettersi un'antenna definitiva, no? Non esiste. Poi, voglio dire, è certo che è molto più vistosa la base magnetica dentro, cioè adesso ci ho messo quella crovel pose con questo stilo lungo, nero, attaccato, se no mettere a me, ma chi se ne frega, però quando non lo sto usando, oppure devo fare i cavoli che non voglio che si fai, la prendo e la butto nel cofano e torna tutto a posto. In quella maniera c'è sempre questo buco nella cappotto, una macchina del genere, non va bene, cioè non è che ci può stare bene in una cappotta piatta, sai, può essere anche la macchina di mia moglie, ci può stare, ma qui è tutta bombata, lavorata, cioè questa non va bene, boh. È una questione di certo che ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, però non va bene. Certo è anche all'inversa, boh, tanto poi se c'è una capotta lì, ma devo tenere 10 anni, uno l'avrei fatto anch'io probabilmente, ma qua non fa. Ma lui c'è 10 anni, io ce l'ho già 10 anni da via. A più 10. Infatti, no, qua non fa, non fa. Poi non è più periodo di, non so nemmeno, secondo me come va. Certo, poi le giovani dire basta, quando sono 20 anni con macchine grosse, mi rotta le scarpe, non è più periodo. Ma no, ti stanno mettendo talmente tanta paura che ti fanno ridimensionare, magari anche se non è così. Però sono sempre messi tutti spaventati. Mi ha detto, boh, basta, iniziamo a ridimensionarsi, a fare, perché qua non si può più così, non so. Non sai il domani, hai paura di metterti un debito, di farti una cosa, di cambiare casa, di fare un investimento, hai paura di tutto, veramente è diventata una cosa assurda. La signora forma, vabbè, e cosa vuoi fare? Ci siamo passati tutti in questi spaventi, adesso se la prende in culo, piano piano si va avanti, anche se ci fanno spaventare, oramai non assurdo più, tanto. Siamo io alle vidi, quindi va bene, vai, proseguite, io mi termino questa cosa che sto facendo e poi semmai ci sentiamo più tardi. Avanti, già. Fabri, dai, almeno diciamo ti è tolto le soddisfazioni della vita, le macchine belle le ha avute sulla 500. Secondo me non è quello il problema, cioè non mi interessa macchine, moto, quanto ho girato, quanto ho soldi ho buttato, ma lì lavoravo, voglio dire, io ho sempre lavorato lì tranquillo, poi fuori, ho fatto tanti di quei giri, stragiri, quando si poteva, vendevo, compravo, non ho fatto due di investimenti, ma andavo senza problemi, molte volte dicevo, vabbè, facciamo questo che è più grosso, debiti contro debiti, però ero sicuro che io ogni mese ho un certo tipo di reddito che grazie a Dio non è basso, così tacco, riuscivo a fare, oggi ho paura di cambiare casa, anche se e prima dove mi prendo la cambio casa, se avevo degli affari, cambi casa, tanto vabbè dai, mi metto 6-7 anni di debiti, chissà, non mi metto paura che fra 6-7 anni qui mi trovo a Palermo, veramente ho quello che ho fatto, ma veniamo qua, facendo la niente che mi dice quello mi serve per mangiare, lascia tutto, sto bene dove sto, c'è questi livelli, capito? E vabbè. Io una volta mi ricordo sempre Fabri che ho conosciuto tramite radio a Baracchino il padrone della Aexon, quello che fa i prodotti per macchine, tutto quello che aveva la fabbrica, il principale. E mi ha detto, mi stava chiedendo dove poter andare a mangiare bene, che non interessava nulla di pagare, eccetera, eccetera, che voleva mangiare bene, vabbè, e l'ho portato in un ristorante. E lui mi ha detto questo qua, mi ha detto, sono andato a mangiare insieme a lui, ci siamo conosciuti, e gli ho pagato la cena io. Fatto sta che non volevo in nessuna maniera, comunque quando ha fatto questo discorso, ha detto che lui ai figli gli ha insegnato una mattina colazione, c'è il latte con le paste, una mattina li mette al posto delle paste il pane duro, perché? Perché dice, oggi stiamo bene, un domani non si sa come possiamo stare, quindi loro si devono abituare a tutto. Non so, il problema infatti non è per me, perché a me non me ne frega niente di tornare indietro, come torneremo tutti gli italiani, come stiamo già tornando e come è successo. Sai, ma che mi dispiace per i miei figli, è solo per loro che non c'è futuro. È quello, quello, infatti, come ti dico, non te lo fa altro figlio, che futuro gli dai? Stiamo finendo, guarda, se non parti fuori all'estero, qua, hai poco da moscare. Sì, non è, infatti, non è possibile, non è possibile. Infatti, non so che fine faremo. Adesso ci sono le riture, ma a chi butti di chi si bagnacci? A chi butti? Uno peggio dell'altro. Io guardo, sinceramente non so a chi votare, dico la verità, perché mi hanno dimostrato tutti che quando c'è da mangiare, mangiano tutti, quindi io farei piazza pubblica di questa gente qua, ho messa gente nuova, con idee nuove, gente che magari adesso non c'ha lavoro e che si è contentata, lo stipendio normale, non di quello che prendono questi ladroni. Sono con dimmi se mi ascolti. Beh, sono con l'iPhone col telefonino. 45 5 20, ti ho sentito perfettamente. Io sono col telefono praticamente, dove c'è la radio, sto usando il telefono. Usando il telefono oppure la radio? In digitale. In digitale, diciamo che sto utilizzando il sistema delle colinche, non sto facendo altro che praticamente sto utilizzando, siccome noi siamo scollegati dal resto, non ha dato l'accesso a tutti, ha dato solo l'accesso a noi di Sassari, quindi noi da qualsiasi parte del mondo possiamo chiacchierare qua a Sassari, cioè tramite internet, e di colleghi utilizziamo le colinche che adesso è montata a casa di Massimiliano, che dovrà andare a casa di Walter, che poi andrà sui 430 e su, non so, andrà in UHF, dovrà essere portato, sta aspettando gli apparecchi che gli devono mandare, e quindi sarà lì, dai, ed è comodo per quello, perché se io te l'ho detto, se tu non te lo dicevi non te ne rendi nemmeno conto che stavo usando l'iPhone, capito? Ma non lo vedo, non usi più la radio, allora già il modo del sistema di radio è già cambiato, dai, non usi più la radio, usi il telefono al posto della radio, io la vedo già una cosa diversa. Ma non è che non usi la radio, stai utilizzando un come usare un ponte radio, quando io mi collego a un ponte radio, utilizzo un ponte radio, ci sei, ponte radio, mi collego e utilizzo, aspetta che non si vuole il telefono. Ma magari. Oh, ci sei già? Io, Fabio. Ti dicevo, quando sono in macchina, che siamo a 145, 525, 250 dove siamo, a un certo punto cosa succede? Che magari non mi senti, allora dico passa sull'R4, se passi sul ponte, e quindi sul ponte non c'è problema, è coperto e ci sentiamo lo stesso. La stessa cosa è con le colinche, non è che c'è una cosa di diverso, praticamente io devo utilizzare, in questo caso non a Sassari, utilizzo un apparecchio radio che è a Sassari, che ha reso piazzata a casa di Massimiliano, e quando devo usare quel ponte radio, uso il telefonino per accedere a quella radio che è lì da Massimiliano, siccome io sono in quel server lì, sono registrato, come entro, con il mio nome attivo, lui lo riconosce e praticamente mi fa trasmettere su quella radio, e quindi invece di usare la radio a Sassari la utilizzo tramite telefonino. Ovviamente siccome passo tramite internet, perché poi mi rimuta Massimiliano fuori da casa sua, se sono ovviamente anche a Verona, sono a New York, io utilizzo la rete e automaticamente posso sia ascoltare che chiacchierare, capito? Non è niente di differente. Poi se voglio ascoltare un QSO che c'è da un'altra parte d'Italia, che ne so, a Verona, qualcuno ha questi culinchi da Verona ed è aperto a tutti, il nostro non è aperto a tutti, è aperto a tutti, io entro dentro, loro nemmeno se ne accorgono, io li sto ascoltando, se voglio gli parlo, loro nemmeno si rendono conto che io sto entrando tramite un, sembra che sia lì, capito, utilizzo una delle loro radio. Ma non è allora esclusivamente per dire, non è esclusivamente che si usi quando magari non ti ascoltano in frequenza normale, si utilizza anche per fare di QSO proprio. Chiaro che si usano per fare di QSO, si usano per fare di QSO, adesso per esempio io, un esempio magari sono fermo, mi collego tramite i colleghi, mi cerco una room in qualsiasi parte d'Italia, in qualsiasi parte dove c'è, dove poi stiamo chiacchierando noi per esempio, se è aperta io mi collego, entro e chiacchiero con loro, capito? Quindi non è una cosa poi uno usa ovviamente, no, io sono delle cose che non mi piacciono, non le uso, tipo per esempio il digitale, prima facevo collegamenti in PSK31, mi piaceva molto, e ne conoscevo un altro che abbiamo preso la patente insieme che mi faceva pezzi, non ho sentito. Adesso io vado a controllare, io metto il cluster, io lo trovo sempre in PSK31, io non lo sto più utilizzando. che cosa cambia? Ognuno poi, siccome è molto vasto ognuno poi fa quello che più gli aggrada. Comunque questo è il sistema, è molto carino da utilizzare, io alle volte è capita che lo utilizzo, quindi poi tutto è buono, dai. Poi ti volevo dire una cosa, ma mi sfugge, ora se riprendi. Ma questo sistema chi l'ha ideato? Chi parte da Massimiliano questo sistema qua? Questo è l'equilibrio mondiale, no? Questo è un equilibrio mondiale che vuole promettere una stazione ripetitrice qua ogni 10 minuti da, infatti se tu guardi ogni 10 minuti da il nominativo, una stazione ripetitrice se non c'è nessuno, quindi non è che l'ha detto lui, non è altro che praticamente invece usare il ponte radio, per esempio non so se ti sei collegato tu ascoltando il link nazionale, l'hai mai sentito della Cisa? Sì, lo senti, lo senti. Prima l'ascoltavo spesso, adesso non riesco a trovarlo. Poi adesso nella casa ti do io la frequenza. Se tu ti metti lì ci sono due frequenze, la stazione è quella più vicina, l'altra è quella mi sembra da cosa, da idea. Vabbè, con quelli io praticamente collego tramite i ponti radio uno con l'altro tutta l'Italia senza nessun problema. C'è metro possibile. Io mi suddivido, mi faccio come noi stiamo chiacchierando qua, io con la radio mi chiacchiero tutta l'Italia senza stare a vedere se c'è propagazione, né girare antenne, né puntare, né fare, senza problemi. Una cosa, per quello ti dicevo, ho detto che non trovi qui, perché c'è tanta di quell'attività da fare, che tu quando ti metti a fare una cosa, passi, guardi l'orologio, che 2 ore sono passate, e sembra che non hai fatto niente. Beh certo, perché puoi spaziare su tante cose, poi sono cose innovative, magari ti stuzzicano di più, magari sono cose che ti attirano, capito, in un certo modo, perché non è sempre la solita minestra, magari puoi cambiare, puoi scoprire nuove cose, questo è una cosa buona, là, almeno qua possiamo, diciamo, si può fare qualche cosa per distrarci un po', dai, dal mondo esterno. Sì, ma infatti, ma poi per esempio l'altro giorno, ad esempio, mi sono fatto uno spazio libero, ho fatto un po' di, stavo provando a fare qualche collegamento, dopo un po' mi ha risposto questo non ho capito l'italiano, adesso mi sfugge il nominativo, e mi ha detto, cazzo, stai arrivando a bomba, in 20 minuti non mi era mai capitato, mi ha detto la Sardegna, perché io non sento, poi iniziamo a chiacchierare, siccome lì poi c'era un po' di movimento, ho detto, sali qualche ciclo più su, ci siamo spostati un po' più su, e ce l'ho fatta, iniziamo a chiacchierare, quindi è passata 2 ore, dopo 2 ore guardo la voce, ho detto, 2 ore, chiacchierando, ho capito, del più del meno, di cose, di non cose, eccetera, eccetera, e questo io, l'altro giorno lo stesso, stavo provando, ho sentito quello di Aiaccio, inizio a chiacchierare, boh, e ci ho passato tutta la serata, un esempio, è passato il tempo, non è che non ho perso una bella serata in radio, come l'ho passata stasera chiacchierando con te, era più vago, qualcosa di diverso. E dove questo? Di cosa stiamo parlando, di Aiaccio o di 20 metri? No, questo qua è frequente a questo, chiacchieri con tutta l'Italia. Con il link nazionale della CISA. Ah, ho capito. Ehi Josh, della CISA, link nazionale della CISA, no, però l'osso della CISA. I ponti sono della CISA, ho capito. Dove sono scritto io, dai? E quelli hanno fatto una rete di punti micidiali, cioè parti dalla punta della Sicilia sino alla punta più alta dell'Italia, io ho collegato tutto, ho sentito tutto senza problemi. Prima lo usavo, adesso non lo sto più usando, ma ogni tanto ce l'ho sulla frequenza e l'ascolto, e entrano un po' tutti, dai. Poi bello in macchina, se stai viaggiando in macchina e ti collega anche Walter, l'altro giorno rientrando l'ho utilizzato. Ci sono tante cose sotto, tu ancora non l'hai seguita perché chiaramente ci sia poco. Al CISO gli hanno fatto attaccare tutti i link e gli ecolink perché non è stato riconosciuto dal sistema nazionale come l'ARI, quindi ci sono tante cose. Comunque, no, io non c'entro mai perché non mi interessa. Ascolto anch'io, ma non mi è mai interessato. L'unico ponte che io ho sempre usato è l'RSI, che praticamente sono quelli attuali in Sardegna, poi gli altri no. Va bene, va bene. Avanti Gianni. Vabbè, le opinioni sono diverse, sono ognuno alle sue. Diciamo che le innovazioni a me piacciono ascoltarle. Io ascoltavo molto Link Nazionale, poi non so di chi sia quello che ascoltavo io, però diciamo che lo ascoltavo parecchio perché mi piaceva anche come si poneva le cose, però poi c'è stato un periodo che hanno cominciato a fare macchie come fanno qua, gente che diceva si cantava, sai a cosa va incontro se ti trovano, ti rompe, ti troveremo, quindi con l'altro minacciato, cioè alla fine poi non l'ho più ascoltato, l'ho cancellato tutto. Lo so, non so se mi senti ancora già, lo so, quelli è qualcuno, ma il 90% non è meno magari qualche radioamatore, qualcuno con queste radioline ormai che disturba, però va bene. Ascolta, vai, ci sentiamo magari dopo la casa, mi sto parcheggiando. Io Fabri, dai, vai tranquillo, non c'è problema, sono qua. Ciao, oddio. Buia. Io ascoltando 20 metri, no, mi piacciono quelle, mi piace a me andare sui ponti, è difficile che ci vada, ma proprio difficile, l'unico ponte che tengo il monitor è quello in HF, poi il Link Nazionale in particolare, lascio Masidi, lascia perdere, ne ho visto di cotte di crude in 25 anni, quindi non è quello il problema. Non ho più sentito che ci sono tutti a parlare, c'è stata una denuncia a livello nazionale dove hanno dovuto spegnere tutto immediatamente, perché tutti quei link per me sono per fase, si usano in fase di sperimentazione, non così come hanno fatto loro, come stanno continuando a fare anche gli altri. In fase di sperimentazione si può fare, ma per il resto ci sono i punti, capito? Non è legale, per capirci, poi ognuno può dire quello che vuole. Se si studi bene la normativa, legga attentamente ciò che dice lo Statuto Nazionale. Non è legale fare questo che stanno facendo adesso, questo modo di trasmettere col telefonino, eccetera, eccetera. Per me no, solo in fase di sperimentazione lo puoi fare, poi, ripeto, non puoi fare quello che vuoi, siccome già è successo anni fa, io ho visto tutti a far radio, denunce contro denunce, e balle varie, capito, affarratori, allora io non ho niente da che spartire da nessuno e faccio di testa mia, poi ripeto, senza offesa per nessuno, sono bellissime cose, però lo Statuto Nazionale dice che è in fase di sperimentazione, siccome chi lo sta sperimentando c'è la casa sua, quindi per il momento è legale, la volta in cui viene messo in una postazione non è più legale. No, io non entro in merito perché non conosco lo statuto e non entro in merito qua, non direi fesserie e basta, quindi preferisco tirarmi indietro in questo perché non so dove devo mirare. Ma comunque è da poco che c'è stato, quindi potrebbe essere anche in fase di sperimentazione, non è che sia una cosa fissa magari, non so come sia stata impostata la storia. Ma io lo seguo attentamente, ma sempre incidenti. sì, in fase sperimentale, ti ripeto, in fase sperimentale deve essere custodito, e in questo caso è custodito perché è a casa di Massimiliano, ma nel momento in cui viene spostato e messo in una postazione non è più legale. E la stessa cosa sono tutti questi equilibri che hanno fatto con che ha fatto il CISER con il Link Nazionale, quindi per me non è mai stato legale. Siccome io non ci parlo, non mi interessa, non entro in merito alla discussione, ma era giusto per spiegare a Fabrizio che non è una cosa molto, molto seria. A parte il fatto di CISER è una cosa a sé, non è come l'ARI, Associazione Radio Amatori Italiana. Il CISER è una cosa, sono dei gruppi riuniti che hanno fatto, costituito questa associazione, non appartiene a niente, a meno di zero per conto mio. Vabbè, Giulio è andato via. Lui è andato a vedere la sfilata di Carnevale, lì che fa. Io sarei voluto andare, ma c'è a Marco con la febbre e io non mi muovo da qua. Non è bello lasciarlo da solo con mia moglie, qualsiasi cosa che serve, roba del genere, ce l'ho anch'io qua. Ma allora se ne sta uscendo, quindi mi sa che anche stasera ce la facciamo a casa. Sì, ma non ti preoccupare, anche mia figlia mi sta preparando, se mi sta uscendo io sono partito, anzi c'è la partita della Juve stasera, dove avevo la partita, ho preparato un pezzo di cinghiale alla veloce, buonissimo ho fatto, e poi vediamo, la pizza abbiamo mangiato ieri, cazzo quanto mi sta sulle balle questa voce, mamma mia. Per carità, c'è una voce di zoccola, ma potremmo mettere una voce di uomo. Ho sentito anch'io, ce l'ho anch'io. Ma ogni quanto scatta, di quarto d'ora, è automatico. Io non so come l'abbia impostato Massimiliano, però se è automatico, ti dà l'ora. Ti dà una mezz'ora, l'ora esatta, e poi credo che ogni mezz'ora scatti, ti ricorda, insomma, la frequenza, come è impostato il link, e ti dà dei consigli. Già va bene. Io non lo so, stanco molto, ma stanco, ma non metto la settimana, c'ho ancora domani mattina da lavorare. Devo verificare alcune cose che poi mi servono per lunedì e poi non so, poi sicuramente chiuderò il mese, al prossimo mese chiedo di nuovo qualche altra settimana di figlia che sono pizzi, sono tutta dolori, ma dolori barami, stanno lavorando a tutte le bustine. Ciao Claudio, io fra più o meno un quarto d'ora esco da casa, devo andare alla Conad, due cosettine, sicuramente dopo le 8, ti passo quella cosa là. Va bene, ci vediamo, sono a casa, non andiamo all'uno, sono a casa, fai tranquillo, non ci vedo nemmeno con il telefono, sono qua. Ok, dai, avanti già, buonasera. Ciao, Massimiliano. In casa, sì. Dice che c'è la sfilata di Putti oggi. Dove la vado mai io? L'anno scorso sono passato, ma di sfuggita così, in casa c'erano due carri, per carità. No, non è roba per me. A me piacciono le cose, oggi sarebbe stato bello andare all'Alghero, alle 2:30 c'era l'Alghero, all'Alghero lo fanno bello. Io l'ho visto quello di Alghero, ma c'è anche a Senno di domani. C'è anche a Rio de Janeiro, una settimana, chi si è bello? ti ce l'ha da poco. Tu mi puoi dare un mandolino, me, lo sai. Ma la cionca, per attivare la vista va bene, no? Tu vuoi attivare anche un'altra cosa, va bene, la parte qua. Ma dicendo tu si fai capire che che non è attivo adesso. No, no, tu hai detto attivare la vista, va bene, io ho detto attivare anche un'altra cosa, va bene. La vista, la vista. La triglia la fanno bello, sì, eh? No, e soprattutto ci sono belle donne. Ma poi il bello che tutti i giorni, capito, Cla? Ah, Cla, oh già. Per una settimana lì è notte e giorno, non sei pandemi. Vabbè, tutti i gruti, ti si la ammalinnati. Oh, vabbè, se ti si la ammalinnati, tu la dici, Mara. Tu? Tu? Ma ti mi chiama tu, Gini, il padre è morto, non la fa. Io. Beh, stava male, lo sapevo, stavo facendo il tu. Tu non la fai morto davanti a lui. Io. Ma non è stato a me, non è stato a me che stiamo aspettando giorno per giorno. Poi sono a fianco. Yes, male mi due. Vabbè. Lo voglio. Grande da qua. Non lo so, magari non è che chiesto poverino perché mi ha avvisato. Vabbè. Io già voleva. Purtroppo la vita è quella. Ui. Ma perdere la vita per colpa di altre persone non è proprio giusto, eh? Non lo so. Perché lì non è il problema che è morto da solo, ho già, hai capito? Lì è che hanno sbagliato dandogli una medicina e l'hanno aggrappato. Davvero? Ma l'ha ricoverato? Non lo sapevi niente. Non è cattivo? No, non sapevo. Io sapevo solo che stava male e mi ha detto che stavano facendo il turno e che gli toccava a lui, questo va bene. È positivo. Mi dispiace a voi. Capo. Vabbè. Via. Ecco perché era di malumore l'altro giorno. Sì, è una linea di malumore. No, noi stavamo parlando del carnevale del Rio de Janeiro, capito? Lì già lo fanno bello, ma Gianni mi ha detto, cazzo lì c'è l'attivare di urti, io ho detto, mi chiedo per attivare pure un'altra cosa. Io l'avevo definito una volta, guardandolo bene la TV, il carnevale delle sciampa di duro. Ma c'è, se lì lo suono il mandolino. Io ce l'ho il 3D, il carnevale di urti di Giarino. Ma lì ti fanno vedere proprio, per carità di Dio, cioè allucinante. C'è proprio il clima della stessa, come fai questi posti, io ho un amico che va a pigliare, io, questi posti qua, ma ecco, come scendi dall'aereo già, c'è già il clima di festa. Vabbè, cos'è detto Massimiliano, non ti compresi nulla. Ho detto che lì è bello perché dura notte e giorno, capito, per una settimana, e ne vedi tutti i colori. Ma voglio fare pippe. Ma voi la sta dritto, Givi? Che? Givi, se un anno va a lo sbandiratore. Io la vuoi fare. Io ho finito quella cosa stamattina, qua, tutto a posto, con documento di identità valido, giustamente, è tutto. Adesso quasi farà, penso, fra 4-5 giorni qualche risposta, giusto, qua? Direttamente l'autorizzazione. Ok. Così sono tranquillo, va? Sì, già va bene. Non c'è problema. Ok. E quindi già è nato con la febbre. E adesso gli ha calato un po', è stata più finita. Gli è calata un po', però già sai come sono i bambini, ha detto non ci stanno. Stanno sempre girando, guardano sul televisore, bimbi. E ho detto, statene a letto Marcolini, che almeno ti passa subito. Non ci riesco, sto male a letto. Beh, non dico già. A letto. Ma è trattatemi che ci fanno un banolino. Lui è già grande adesso. Già va bene, quanto che non riesco che ti c'è freddo fuori, mi cazzo. Sono vicino a te, lo buongiorno. E c'è freddo. Qua, all'addio. Tutti quelli che fanno dicono, ah, che bella calda questa casa. Sì, addio, c'ho già adesso, ma c'è lo scaldamento alle 6 in un'ora, lo voglio a 22, 22, 8, 23, quasi 23 gradi. Sino non acceso sino alle 11, arriviamo anche a 25 gradi, non male che corte, 25,6, ah, ma ci vediamo, ne voglio avere no, che cazzo. Io invece adesso sono intorno ai 26, quasi 27 gradi, più o meno. Allora, tu pensa che vabbè, hai visto come a casa, quel pezzo là è tutto mozzardato e quindi sopra non è commentato, il caldo va via se non lascio il condizionatore acceso. Tu pensa che c'è il condizionatore acceso 4 giorni senza mai spegnerlo. Yes, ma no, qua è tutto a gas, tutto a gas, tutto a gas, termosifoni a gas, ma sono buttenti, già in questa stanza ci sono 23 gradi in un'ora, c'erano 19 quando sono entrato, 23,6, e già c'è la mani di gol, più tutte le radio accese, già va bene. E io ci dobbiamo tutto male, no? Ma se vuoi andare a fare un freddo, andiamo a fare il calduccio, la casa più calda è meglio è, uscire già. E io. Questa signorina. La vita non ti si è messa qua. Ah no. La bettella io. Sì, già la sto sentendo, è che abbasso il volume, già, ma già dovevo smettere muoversi. Vabbè, magari la brittella. Ciao Luca, un attimino di quelli che sta per... Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Massimiliano, ciao Claudio. Sono qua che sto ascoltando prima, vabbè, ero al telefono, mi stavo ascoltando la prima, poi basta il volume, sono altrimenti non sentivo il telefono. Comunque mi stavo sentendo anche prima. C'era Giulio, no, se non sbaglio, se non mi ricordo chi c'era, vabbè. Stavo ascoltando e niente, sono qua a casa e devo andare in casa. No, mi avete fatto male di tutta la gomma, cercano la nuve, cercano la tempia, tiene il collega all'aereo a perfugas stasera, ma già andavo qui Alghero, figurati, mi potevo andare Alghero per vederlo tranquillamente. Ma no, non io voglio. Ho lavorato la Cina. Ah, sono rientrato con le due. Morone. Capito? Poi mi ancora me l'ho rischiato, adesso le prime Cina a metà. Ancora me l'ho rischiato, invece ho visto dopo aziendale, ha detto che ha fatto l'elettricista, invece voleva lunedì mattina passare a prendere, vorrebbe portare la macchina sua di Fiat e quindi mi sono salvato. Ma se mi volessero chiamare, guarda, allora io metto mi si va di Tampas o via, perché non ho proprio voglia di uscire, ma nulla mi avanti Massimiliano. Sei positivo, ciao Luca, ti saluto, buonasera. No, io stamattina niente, sono passato lì a Premanieta e sono entrato a vedere le gare e le mostre dei cani. Quindi a Gianni Vegio, allucinante. C'è anche tutto il giorno domani. Domani mattina? Sì, mattina, sera, fino credo alle 6:30, 7 di sera. Però bello, cavolo, bello, ci sono tutte le razze dei cani, come li vediamo in televisione, cioè quando con quel collare che lo portano su, rimangono fermi qui, bello, una bella manifestazione. Ma ti immagini di aver fatto la gara dei cani mosci, allora non tu vogliamo essere i cani mosci. Sì, fa, chi c'ha venne la patria lì? E mettono là questo cane che c'è fatto. Sì, a posto, il cane è già prenotato e è tutto a posto. No, vabbè, c'ha penso una ventina di giorni, 25, credo che me lo darà quando mangia da solo, capito? Inutile portarglielo così e staccarlo dalla mamma non va bene. Sì, ma quando la mangia da solo, una sera, sai, me lo prendo e glielo scendo. Peccato, veramente, peccato che mia figlia è logica, se no non lo vedo più. Lo chiede, quello piccolino dove c'è Luca. Lo chiede, quello piccolino più bianco questo. Sarà un barboncino. Sarà un barboncino, ma dico lo chiede bianco, non c'è mai visto. No, barboncino sicuramente, sei arricciato pure. Arricciato, un barboncino di vacca. Sì. Oh, claro. Sono a posto, no, sono a posto, la mamma è una Yorkshire pura pura, hai capito, la razza media, perché Yorkshire c'è, razza quella nana che rimangono piccoli, la razza media che sarà intorno credo ai 3 kg, una cosa del genere, 3 kg e mezzo, e poi c'è la razza un pochino più grandetta, che mi sembra arriva intorno ai 5 kg, hai capito? E ne ha fatto tre, ne ha fatto due neri, sai, il classico gli occhi, sai, no? Nero e beige, e l'altro è uscito bianco, boh, ma dico preso bavoso. Deve essere favoloso bianco. Ragazzi, Gian Paolo. Deve essere favoloso bianco, non l'ho mai visto uscire bianco. Sono solito essere barboncini bianchi, capito? Da zomba. Tu immaginate che ragazzi, mia figlia c'è un paese a Canario, si chiama. Tu mattina aperta, non l'hai mai visto, ti giuro che è un mattino aperta. È una cosa allucinante, ma è un cane Valecchia, allora è un cane Valecchia. Che di quanto bravo cazzo si piscia sotto. Dovrebbe essere la combattimento. Dovrebbe essere di quel cane a combattimento, ma si piscia sotto solo a ballo. Cos'è il tipo che fa la faccia che fa una daura? Tu hanno un gatto. Che c'è la faccia? Tipo un tavolone, una mascella. No, quello è scacciato, no, quello è il cavolino. No, lunga, c'è una razza, no. Come cazzo rimane più o meno come il pitbull, però al posto di essere, cioè la testa, al posto di averla la forma come c'ha il pitbull, cioè il muso tutto allungato, mi sembra che ci abbia dalle orecchie fino al muso è tutto lungo, è proprio feo. Ma tipo quanti napoletano, dici, sono il muso tutto cazzo, guarda, cazzo. Ma ho visto a Pechino Moretti, una favoreggia del valore doppio di Ciugà, e si chiama presa canario, ed è praticamente come della razza del mattino napoletano, di quelli lì, del Pitti, Bulldari, quella di quella che... No, è proprio un allevamento a sé, presa canario, chiaro. È un allevamento a sé. Sì, no, quei pit, quelle cose lì, no, è un cane spagnolo. È un cane spagnolo, cara. Allora, come la mia? Ho capito, Cla, è il tipo Matteo Napoletano. Stamattina ce n'era uno lì, guarda, vabbè, lì sono tutti i cani con pedigree e roba del genere. E c'era questo mattino Napoletano, io guarda, cioè dal vivo una cosa del genere non l'avevo mai vista, lui avrà pesato 110 kg, 120 kg, come a capo, guarda, c'era bello, faceva paura, no? Bello davvero, tutti mi stavano, sai, cioè, lo straccio, no? Li stavano pulendo tutta la paga, ogni chifo, ogni avvia guriziani, guarda. Allora, giuro il cane di mio genere ho preso 70 kg, 70 kg, ma un anno e mezzo, e ci ha finito tutto. Quindi è grosso, va. Anch'io ce l'avevo, io ce l'avevo l'arano Arlecchino, il maschio, in due anni pesava 92 kg, bello, poi è morto, vabbè, peccato. Ma sono cani che, claro, deve avere forza per tenere, non è un cane da appartamento, credo. No, ma figurati, lui ce l'ha giù nel giardino, poi c'è il furgone, il furgoncino, ve l'ho portato il furgoncino, lui si sta dietro un momento in macchina, cosa, che si convertiva una cosa allucinante, cioè se ti salta sopra cadi, no? Non c'è niente da fare, ma è bravo, ma sono bravo, obbediente, ecco, d'accordo per fare questa commissione, poi ti avvicino quella roba tua, no? Non sono orario, tra al limite sono, salgo, trovo, ne vado, ma orario preciso non te ne posso dare, devo andare a fare una piccola spesuccia lì, ho capito. Ci sentiamo dopo, dai. Saluto, mi è sembrato sorso. Saluto Luca, Gianni Granguerrizzi, Mario Ascoltoni e a te Claudio, dai, ci sentiamo più tardi, ecco lì. E io anche adesso non ti preoccupare, sono a casa, sono a casa. Avanti, lo credevo, senti Antonio Giuseppe di Sos. Più postazioni, può fare la roba tra i microfoni, capito? ma non c'è, fa sempre mettere in giaccia di chi qui, sempre, ma te la butti a te, ma è sempre quello, ma ti interessa, non lo spieghi, niente, ma ti tratti due, sempre hai due di mezzo, sempre, ma quando ti coglione, ti ascolta, fa una cosa, siccome c'è una chioccia lì, no? La sua lunga, siccome hai gli amici suoi e conosci 10 anni, poi mi conosce 2 anni circa, lui preferisce questi amici suoi, cioè ti fa fare quello che vuole, tanti luce, vuoi andare a quella donna chiusa, vuoi fare quello che vogliono, fai una cosa, la chiusa, la prendi e te la sbatti in culo, così, come sono andato, sono più entrato. Io ho fatto bene, no, io ho fatto così, ho ascoltare, ma mezz'ora di musica e poi, manco intervengo, sto sempre lì agganciato, ascolto un po' di musica e poi me ne vado, capito, non mi interessa più. C'ho tutto, il microfono e cuffia, ho fatto un bel impianto, anche ti ricordi, riuscivo un bel bene anche con la voce. A voi, no, me ne ho fatti bene, ho aggiornato da poco, mi anche, che c'è l'aggiornamento, mi è uscito l'aggiornato, però no, mi interessa, non c'entro più. Va bene, vai, io rimango 10 minuti di ascolto e ci sentiamo dopo, ok? Fidare dopo, claro. Già ci sei, c'è nessuno? Passati il 10 dopo, sento già. Non lasci per me, c'ho anche fame. Ma buona, mi interessa, ci sentiamo dopo, claro. Se c'è qualcuno, se no, attimo. Vediamo, dai, c'è un programma alle 5. Ci sentiamo più tardi, magari al 10, ciao.